Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Può fare. Voci da un mondo sostenibile di Laura Bettini. Gentili ascoltatori, buongiorno. Si può fare, si può far scorrere. Questo è il tema della nostra puntata di oggi. Noi abbiamo dato il buon esempio. Abbiamo fatto scorrere la sigla, come avete sentito. L'abbiamo un po' cambiata, ma siamo sempre noi. E oggi, come dicevo, parliamo di cosa si può far scorrere. Il denaro, il traffico, perfino il sangue, certo non è roba da si può fare, il tempo senz'altro, e poi se lo facciamo scorrere in malo modo, beh, ce ne pentiamo amaramente. Si può far scorrere la sabbia tra le dita di una mano, ad esempio in riva a un fiume che poi è fatto d'acqua, che scorre, Pantarei, tutto scorre, il fiume solo apparentemente resta identico a se stesso, in realtà scorre. E pensando al fiume che scorre, mi sono ricordata di Otto Montagne, il romanzo di Paolo Cognetti, il nostro ospite nella prima puntata di Si può fare in questa stagione. E là lui dice: c'è un bambino che guarda il fiume, il padre gli chiede: dov'è il futuro secondo te? E il bambino risponde puntando il dito a valle. Il padre scuote il capo. Anni dopo, il protagonista capisce cosa voleva dire il padre e scrive infatti Cognetti: se il punto in cui ti immergi in un fiume è il presente, allora il passato è l'acqua che ti ha superato, quella che va verso il basso, dove non c'è più niente per te, mentre il futuro è l'acqua che scende dall'alto, portando pericoli e sorprese. Il passato è a valle, il futuro è a monte. E noi oggi parliamo del futuro che da monte sta arrivando verso di noi, scorre veloce, non aspetta i nostri comodi, ma noi possiamo cavalcare questo futuro. E voi potete comunicarci la vostra idea del futuro che scorre, dell'acqua che scorre, di come riempiamo questo tempo, delle azioni per il futuro, chiamando l'800 24 00 24, oppure scrivendoci 349 238 6666. E intanto noi vi diamo l'idea di qualcuno che il tempo l'ha cavalcato, il progetto per il futuro ce l'aveva, e lui è il nostro primo ospite in questa puntata di oggi. Si chiama Gino Pellegrino, buongiorno. Buongiorno a voi. Fondatore di Laghi Nabi, è un programma di rigenerazione ambientale a Castel Volturno, un nome che noi conosciamo purtroppo per disastri ambientali. Invece voi avete proprio trasformato quest'area, no? Trasformando quella che prima era nota come un'area di discarica in qualcosa di veramente bellissimo da un punto di vista naturalistico, che si può frequentare serenamente, e c'è tanta tanta acqua. Certo, in realtà sono ex cave di sabbia, anche perché lì, migliaia di anni fa arrivava il mare, poi i sedimenti del fiume Volturno hanno portato il mare più avanti, e negli anni 80 e 90 è stato saccheggiato dall'uomo per i fini speculativi dal punto di vista edilizio, cioè è stata estratta sabbia e quindi è uscita di nuovo l'acqua superficiale, l'acqua di falda. E quindi ci sono queste piscine fondamentalmente, si sono formate. In realtà sono dei veri e propri laghi, perché sono tre laghi di circa 100.000 metri quadri cada uno, e dagli anni 90 sono stati completamente abbandonati, sono diventati luogo di abbandono, di discarica, non luogo dove non c'era vegetazione, solo questi invasi. E poi appunto io ho visto delle immagini, insomma, a parte i silos e le parti che erano per lavorare, però c'era tutto questo contorno veramente non attraente, che era appunto, quindi da discarica diventava sempre più discarica, proprio perché sembrava brutto e non fruibile per nessuno. Certo, era il luogo di abbandono. Noi abbiamo visto oltre, abbiamo visto in quel luogo la possibilità di una rigenerazione ambientale, quindi diciamo da diversi anni abbiamo cominciato a lavorare a questo progetto, mettendo assieme una serie di energie, risorse, uomini che avevano voglia di riscattare il territorio. Abbiamo portato avanti questo progetto di turismo ecosostenibile. Quindi il primo passo immagino sia stato ripulire tutto, questo è poco certo, ma sicuro. Abbiamo ripulito tutto, addirittura c'erano macchine tagliate perché versavano anche, diciamo, era anche lungo per chi rubava auto e li abbandonava in quel posto, pneumatici abbandonati, inerti. Abbiamo tirato fuori circa 100 tir di rifiuti, quindi... E poi insieme. Senta, il denaro vostro, nel senso, scorreva a fiumi, adesso il tema della puntata, dello scorrere, no? Nel senso che per tirare fuori tutta questa roba avete dovuto investire del denaro vostro, quindi certo, anticipare una serie di spese che poi soltanto col tempo sarebbero rientrate. Certo, a onor del vero noi già avevamo una piccola struttura ricettiva a fianco, cioè questa parte era completamente chiusa, non si vedeva, quindi quello che abbiamo guadagnato negli anni, cioè negli ultimi 7 anni, abbiamo reinvestito in questo nuovo progetto, abbiamo messo assieme altri, diciamo, consorziati con attività diverse, la scuola di vela, la scuola di cable wake up, un maneggio, e con loro abbiamo portato avanti questa attività di bonifica veramente senza alcun aiuto pubblico. Solo con, ma perché non l'avete cercato? Perché no, non ce n'era la possibilità? Non ce n'erano, cioè risorse, come si è parlato tanto di aiutare questo territorio, che probabilmente Casse Fortuna è veramente il comune più difficile d'Italia, perché c'è un concentrato di problemi dalla immigrazione, prostituzione, droga, criminalità, microcriminalità, luogo, cioè, dal punto di vista ambientale devastato, diciamo, e quindi però opportunità finanziarie non abbiamo trovato, e quindi un po' alla volta l'avete fatto voi. È un progetto che nasce 5 anni fa, quindi un po' alla volta abbiamo cominciato a riqualificare prima un pezzo, poi un altro, e quindi fatto poi insieme a una serie di professionisti, architetti, paesaggisti, cercare di fare un progetto anche del paesaggio, perché lì dove non c'era un paesaggio abbiamo cercato anche di piantumare tanti alberi, ma che avessero un senso, che stessero assieme, e poi quest'idea di installare tende galleggianti, quindi strutture completamente removibili, il massimo dell'ecosostenibilità. Chi viene da noi può vivere, cioè, il nostro mood è Lagi Nabiu Water Experience, quindi c'è la possibilità di dormire sull'acqua perché abbiamo case galleggianti, tende galleggianti, c'è la possibilità di fare sport acquatici, quindi sull'acqua, c'è la possibilità di andare a vela, di fare un giro in canoa. Quindi è tutto centrato sull'acqua, ecco, questo progetto. Sì, abbiamo fatto anche una piscina galleggiante, abbiamo una spa sull'acqua, e tutte strutture completamente removibili, utilizzando, ecco, il materiale, quale il legno, tende, e quindi mi tolga una curiosità sull'aspetto, diciamo, proprio della gestione delle acque, no? Questi sono laghi, quindi non hanno uno scambio, non c'è un emissario, un immissario, no? Sono, quindi c'è anche tutta una gestione della depurazione, c'è l'acqua di falda, comunque c'è un ricircolo. E poi noi facciamo analizzare l'acqua, addirittura una è risultato quasi potabile, non solo balneabile, ma l'acqua si può, anche perché avendo solo acqua di falda non ci sono scarichi e quindi non c'è possibilità di inquinamento, c'è questo, diciamo, questi scarichi sono stati fatti, cioè l'unico abbandono era sulle sponde, sui terreni, era diventato luogo di abbandono, ma le acque sono acque non ne hanno falda. Risentito quindi non fortunatamente, perché a volte sappiamo, no, che il rifiuto poi sulla superficie c'ha dei riflessi, no, diciamo, sulla falda. Da questo punto di vista, anche perché l'unica possibilità di scaricare i rifiuti era sul terreno, comunque sulle sponde che sono state completamente ripulite. Poi, come dicevo, abbiamo messo assieme un po' di professionalità, progettisti, per fare un progetto paesaggistico, mi diceva anche. Paesaggistico. E adesso a breve inizieremo anche i lavori, installeremo il padiglione nel Brasile dell'Expo 2015, vecchi che avete conservato voi. Sì, avete... comprammo all'asta all'epoca per 100.000 euro. No, quello del Brasile qual era? Quello dove quella rete gigante, quella dove si persero le mie figlie, certo, era talmente bello che non tornavano più giù. Diciamo, pure lì abbiamo dovuto fare 4 anni, cioè, di burocrazia, ricorsi contro ricorsi, poi il TAR ci ha dato ragione e finalmente da pochi giorni il comune ha revocato la sospensione del permesso e quindi in una parte, diciamo, di quell'area. E quindi l'idea di farla diventare un attrattore, anche perché noi il problema che viviamo sul litorale Domizio è principalmente cioè, non c'è un tessuto economico, c'è carenza di lavoro. L'abbiamo persa, diceva, c'è un problema economico, c'è carenza di? Di lavoro, cioè abbiamo i giovani che emigrano perché non c'è alcuna opportunità di lavoro, invece in questo luogo noi abbiamo visto grosse potenzialità. E, diciamo, il tempo ci ha dato ragione perché anche questa stagione è stata un'ottima, nonostante il problema del Covid-19 abbiamo avuto ottimi riscontri perché poi siamo la massima rappresentazione del distanziamento perché le tende stanno in acqua, diciamo, quindi le camere sono distanti. Certo, l'importante era poter uscire di casa, diciamo, poi una volta che uno arriva da voi, come in tanti luoghi naturalistici ha questa possibilità di stare distante. Certo, anche perché è un'area di 500.000 metri quadri, quindi è evidente che noi puntavamo anche ad un mercato estero, anche perché probabilmente Castelvolturno è conosciuto in negativo in Italia, ma potevamo lavorare diciamo con l'incoming di operatori stranieri, ma quest'anno ci siamo limitati ad ospitare turisti italiani che hanno apprezzato molto, diciamo, anche perché l'elemento distintivo non è solo l'intervento qualitativo o la bellezza del paesaggio, ma sono le persone che abbiamo messo assieme, che hanno tanta voglia di riscatto del territorio, quindi questa resilienza che viene fuori anche nei contatti umani, che è molto apprezzato, diciamo, dal pubblico che viene a trovarci. Certo, certo. Allora, noi la ringraziamo, Pellegrino. Gino Pellegrino, fondatore di Laghi in Abi, c'è anche un socio, no? Michele Falco. Tra l'altro, sì, buffo l'insieme Pellegrino e Falco, non lo so, vi siete trovati. Come, no? Avevate una missione, evidentemente, da compiere insieme. Grazie davvero, abbiamo scoperto che si può far scorrere un sogno fino alla sua realizzazione. Abbiamo la viabilità, torniamo tra pochissimo, sempre parlando di fiumi, di laghi e di plastica. Questa volta si può fare. Oh yeah! Lunedì 21 settembre Radio 24 dedica una lunga diretta ai risultati delle elezioni amministrative e del referendum costituzionale. A partire dalle 15 tutti gli aggiornamenti sullo spoglio, gli exit poll e le proiezioni, con collegamenti da Montecitorio, le voci dei principali protagonisti politici e gli inviati nelle regioni. Spazio anche alle analisi del voto e ai commenti, con ospiti ed esperti. Elezioni amministrative e referendum costituzionale. Lunedì 21 settembre, a partire dalle 15, su Radio 24. Fare. Ma è forse quando tu voli, l'imbalzo delle stelle da sole, conchiglie di vetro e la luna e falò, il sonno, la morte, è credere o no, margherita di campo, la riva lontana. Ebbene, stiamo parlando di si può fare scorrere questa settimana, si può far scorrere l'acqua, si può far scorrere il tempo, si può far scorrere anche un impegno, no, per l'ambiente. Se avete qualche vostro si può far scorrere positivo, costruttivo, che volete segnalarci al 349-238-6666, tra poco vi leggo i messaggi che stanno arrivando, oppure telefonandoci all'800 24 00 24, noi siamo a vostra disposizione, vi ascoltiamo volentieri. volentieri. Abbiamo parlato di laghi Nabi, eravamo in Campania, ma l'acqua del mare, dei fiumi quest'anno ha avuto un paladino con grosse spalle, diciamo, anche la pulizia delle acque dei mari e dei laghi italiani e dei fiumi italiani. Questo paladino è Coppa Italia, che si è impegnata con LifeGate per la riduzione dell'inquinamento da plastica nelle acque italiane con l'installazione di 25 Seabin. Che cosa sono questi cassonetti? Non saprei come dire, cestini, ecco, per la raccolta delle plastiche. Beh, ce lo racconta Maura Latini, amministratore delegato di Coppa Italia. Buongiorno. Buongiorno a voi. È un piacere ritrovarla. Quest'anno è sempre in pista, è stata con questi Seabin in giro per l'Italia. Com'è andata? Intanto cosa sono? Sono dei cestini, no? Che catalizzatori di plastiche, non so come dirlo. Sì, sono dei cestini, una tecnologia nuova che ha un enorme pregio, che riesce a raccogliere in maniera continuativa 24 ore su 24 ore, se ben posizionata nei luoghi giusti, plastica abbandonata in mare, ma anche microplastica. Questa è la grande novità, sì, di questi la grande novità e grande valore, perché la plastica è un disastro visibile sotto gli occhi di tutti noi, che quindi credo sia nelle sensibilità, non necessariamente ancora nelle soluzioni, ma nelle sensibilità di tutti. Ma le microplastiche, proprio perché non si vedono, sono terribili, sono dannosissime per gli animali marini e poi per la catena alimentare, perché comunque, proprio perché micro, entrano nella catena alimentare e purtroppo arrivano fino a noi. Esattamente, quindi noi ce le mettiamo e noi ce le rimangiamo alla fine. Purtroppo sì, purtroppo è esattamente così. Li buttiamo in acqua, perché l'80% della plastica dei rifiuti marini arriva dalla terraferma, poi il 20% dalla pesca, e poi ce li riprendiamo. E il Seabin ha questo grande pregio di raccoglierli in una quantità anche molto importante, nella misura in cui è posizionato dove le correnti, dove i movimenti del mare, dei fiumi e dei laghi portano questi rifiuti. Noi abbiamo pensato che fosse un tassello importante da aggiungere a un impegno per la riduzione, perché il primo impegno deve essere la riduzione, poi la raccolta, il riutilizzo di plastica riciclata il più possibile, però anche qualcosa di molto visibile, concreto, da posizionare nelle acque, anche quelle appunto acque dolci, che sono meno sotto gli occhi di tutti, ma sono altrettanto attaccate da questo enorme problema, fosse un'attività importante. Quindi abbiamo organizzato questa messa in acqua di 25 Seabin che girano un po', si posizionano, girano, perché poi stanno lì in tutte le acque d'Italia. Questo è un percorso, è parte molto di un percorso vostro in generale, anche come Coppa Italia, nel senso che delle scelte, mi ricordo parlammo anche voi come azienda, avevate già fatto, comportando questo ovviamente anche degli sforzi economici da parte vostra. Insomma, è proprio una scelta. È una scelta di campo e viene da decenni, perché la nostra base sociale, i nostri soci hanno ben chiaro come un comportamento virtuoso sui prodotti ha delle ricadute positive immediate sui luoghi di vita e sulla salute, perché l'ambiente in quale viviamo è un pezzo del nostro benessere, della nostra salute. Quindi da sempre, da tanti anni, in particolare sui nostri prodotti, perché agiamo più facilmente sui nostri prodotti, lavoriamo per ridurre la quantità di imballaggio, per realizzarlo monomateriale. Questa è anche la grande sfida, perché il monomateriale si può differenziare nella raccolta a casa. Eh sì. Quello che non è monomateriale piuttosto va, se va bene, nell'inceneratore, se va male nella discarica. Quindi, e poi la raccolta differenziata, e attivando un'economia circolare, perché facendo così, raccogliendo bene, si può riusare materiali e riutilizzarli per i packaging laddove la legge lo consente. Senta, a proposito delle microplastiche, c'è anche un impegno necessario sulle microplastiche, lo state svolgendo, sì, perché altrimenti se mettiamo prodotti che le contengono, ovviamente prima o poi arrivano a mare. Questo è un punto clou terribile, che ha bisogno anche di normative ulteriormente stringenti che i legislatori, sia nazionali che europei, stanno mettendo a punto. Anche su questo ambito noi abbiamo anticipato queste difficoltà, che erano già evidenti da almeno da diversi anni, e le microplastiche le abbiamo tolte dai nostri prodotti cosmetici, quelli a marchio Coppe, da tutti i dentifrici. Quindi le microplastiche per i nostri prodotti sono già state eliminate, però c'è ancora tanto da fare, perché i prodotti di consumo ne hanno moltissime e la legislazione ancora non è stata in grado di andare veramente a indicare cosa, in maniera chiara, cosa fare e cosa non fare. Ricordiamo anche che purtroppo, da un punto di vista anche tecnologico, i nostri depuratori non sono in grado di trattenerle. Non c'è modo di evitare che arrivino ai fiumi, perché altrimenti sarebbe come per trattenere quelle bisognerebbe chiudere tutto, quindi non avrebbe più la sua funzione di depurare, ecco. No, è necessario lavorare proprio alla fonte, all'origine. Una legislazione chiara, delle imprese sensibili. Però sa anche lei, adesso mi fa piacere parlare con lei perché si parla di tutto, ma è proprio rapidamente. Legislazioni, ogni volta che si tenta di farne una c'è chi alza i muri e dice no, però io non posso cambiare produzione. Purtroppo serve sicuramente un canovaccio di prospettiva che disegni, secondo il mio punto di vista, come per fortuna la comunità europea sta tratteggiando, un futuro ambientalmente molto diverso dal presente e dal passato, perché è necessario condividere siamo stati distruttivi con questo nuovo modo di vivere, di consumare, di produrre, ecco, quindi una legislazione che indirizza delle imprese che si fanno carico del cambiamento. La comunità europea nel 2018 ha lanciato la Pledging Campaign, la campagna degli impegni, è molto importante quella. È molto importante, io vorrei tornare con lei magari a parlarne, mi perdoni ma abbiamo GR24, vorrei tornare a parlarne senz'altro anche con lei. Maura Lattini, l'amministratore delegato di Coop Italia, ci ha fatto molto piacere ritrovarla, c'è GR24, torniamo subito dopo. Si può fare. Tutti mercoledì a 2 di denari parliamo di lavoro. Parliamo di lavoro e di lavori, di formazione e di professioni, di master e di mestieri. Ma dal 23 settembre, tutti mercoledì, parliamo di lavoro con gli esperti dell'INAP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. Ospite fisso di 2 di denari, con studi, ricerche, analisi e consigli. Perché parliamo di lavoro con chi si occupa di lavoro. Per capire dove va il lavoro, come cambia e come non farsi sorprendere dai cambiamenti. Programma realizzato in collaborazione con INAP, in qualità di organismo intermedio del PONSPAO con il contributo del Fondo Sociale Europeo. Si può fare. Si può fare. Ed eccoci di nuovo insieme in questa puntata in cui parliamo di si può far scorrere, in particolare parliamo di acqua, abbiamo parlato però anche di tempo, di denaro che viene investito per la tutela delle nostre acque, per la costruzione di un futuro in cui le risorse idriche siano per tutti, ma abbiamo anche l'intervento di Maria Rosa che ci ha chiamato da Milano. Maria Rosa, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Io chiamo da Vaprio d'Adda. Per l'esattezza, quindi abbiamo capito. Un paese particolare, non un paese a caso. Un paese sull'Adda, un paese importantissimo perché ha ospitato il grande Leonardo da Vinci. E in particolare ne sapete di acqua, e anche Leonardo ne sapeva. Sì, anzi, Leonardo qui ha compiuto la maggior parte dei suoi studi e proprio l'acqua dell'Adda a lui è rimasta nel cuore. E io volevo intervenire per una frase di Leonardo che è emblematica: l'acqua che tocchi dei fiumi è l'ultima di quella che andò e la prima del tempo che viene, così il tempo presente. Neanche farlo apposta, si inserisce proprio nel perfettamente, perfettamente. La ringraziamo Maria Rosa per averci ricordato il grande genio di Leonardo e per averci portato così a Vaprio d'Adda. Buona giornata. Grazie a lei, arrivederci. Continuare a vivere così all'aria di un naufragio. Sì. Questa vita m'ha fregato, mi ha insegnato ad aspettare, sognare, un mondo mai creato. Il mare già qui che trabocca, ed ora che son sola là. Acqua è il tema della nostra puntata e con la Sardegna ci colleghiamo adesso. Antonio Trabucco, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Ricercatore della Fondazione CMCC, che è il Centro Euromediterraneo che studia i cambiamenti climatici appunto nell'area euromediterranea. Questa settimana avete presentato il rapporto all'interno del quale si parla dei rischi per il nostro paese specificamente, e con lei vorrei parlare del rischio idrico. Abbiamo detto ieri di darci del tu, diamoci del tu, che forse se no ci impicciamo alla fine. Sì, è... Allora, il rischio per il nostro paese. Il rischio è alto perché il cambiamento climatico, per minimo che sia, sarà sui 2 gradi, mi sembra ormai assodato, no? Certo. Nel periodo fino al 2100. Sì, può essere anche peggio. Di 2 gradi, esatto, può essere dipende peggio. Un po' dai nostri comportamenti e dalle proiezioni che un po' sono influenzate appunto dalle nostre abitudini, dai comportamenti, dagli andamenti delle economie. Ma però, sicuramente quello, ecco, che è importante è che la sicurezza idrica è fondamentale per lo sviluppo sostenibile del territorio e della tutela dell'ambiente. E della vita, no? Perché poi l'acqua ci serve per tutto, ci serve da bere, ci serve per i campi, ci serve per l'energia idroelettrica. Insomma, avere un approvvigionamento, diciamo, no, sicuro di acqua e di qualità, ci cambia tutto. Certo. Beh, in realtà si possono parlare di proiezioni in un certo senso che danno delle indicazioni di massima, però è molto articolato e il rapporto appunto si spinge in dettagli a mostrare appunto delle connotazioni che possono essere piuttosto stagionali, ecco, appunto degli apporti idrici al nostro sistema. Faccio un esempio, cioè sarà molto più probabile avere delle precipitazioni più accentuate in autunno, in inverno, ma per esempio nel nord Italia una riduzione del manto nevoso, e quindi si potrà poi incominciare a vedere quello che sono una riduzione del picco di portata, appunto per la mancanza, per l'anticipo dello scioglimento delle nevi. Perché ricordiamolo un po', no? Le nevi ti fanno da contenitore, sì, da serbatoio per l'estate. Sì, se piove, sì, tanto ma nevica poco, poi d'estate non ne hai, perché hai avuto i fiumi pieni in autunno, ma non hai le riserve per l'estate successiva. Esatto, quindi si viene a creare una riduzione, da una disponibilità che comunque rimane più sostenuta nei mesi invernali, prima di dire appunto, durante i quali la domanda idrica è bassa, però si avvede una marcata diminuzione delle risorse nei mesi in cui la domanda è alta e crescente tra i vari settori che hai tu menzionato, ma ce ne sono davvero tanti, c'è l'industriale, l'idroelettrico, c'è il turismo, c'è la tutela dell'ambiente, molto importante pensare che comunque bisogna garantire un certo flusso d'acqua negli ecosistemi naturali, fluviali, e in questo senso, soprattutto quando la risorsa idrica comincia a scarseggiare, tutti questi conflitti di interessi entrano in conflitto. Non a caso vediamo ogni volta che c'è una secca nel Po, il momento di siccità nel Po, ci sono questi tavoli che vengono convocati a Parma, là dove ha sede l'agenzia, vengono convocati e arrivano quelli che si occupano di energia idroelettrica, gli agricoltori, i gestori delle canali irrigui, delle bonifiche e così via, gli albergatori, i ristoratori, perché chi è sul lago ovviamente ha un interesse a che il lago sia pieno d'acqua. È ovvio che tutti questi sono portatori di interesse, questi famigerati stakeholders, che devono trovare un accordo. Però non... allora, sappiamo che la situazione sta peggiorando, no? In linea di massima sta peggiorando, ma c'è qualche azione che si sta compiendo per far fronte a questa situazione? Sì, assolutamente, ci stanno proponendo molte azioni, si sta agendo molto sulla pianificazione a diverse scale. Questo è quello che si parla di pianificazione nell'adattamento ai cambiamenti climatici, che intendiamo, associamo molto, ci teniamo molto noi nella scienza ad associare a quelli che sono i rischi, perché effettivamente si cerca anche di proporre soluzioni. Si va a diverse scale, in campo, per usi domestici si possono applicare tecnologie di efficienza dell'uso dell'acqua, con per esempio metodi di irrigazione più efficienti, si può pensare anche nella distribuzione, nei sistemi di distribuzione dell'acqua, che bisogna agire anche per ridurre quelle che sono le perdite, sono anche molto consistenti di un sistema che ahimè sta cominciando a diventare obsoleto, perdite veramente che arrivano anche al 40%. Purtroppo il nostro è un po' che è obsoleto in molte parti d'Italia, cioè sappiamo che ci sono delle eccellenze, per carità, ma ci sono anche certi colabrodi che fanno paura. Sì, no, assolutamente, non è un problema semplice, perché alla fine è molto capillare il sistema e deve essere un po' risolto in toto, però la digitalizzazione sta aiutando molto in questo senso, sia nella gestione in campo appunto delle risorse, come seguire i fabbisogni delle colture, per esempio, molto attentamente, ad essere molto ottimali ed efficienti nell'uso dell'acqua, sia per esempio anche nelle reti appunto di distribuzione, ma anche nella gestione integrata del territorio, cioè un monitoraggio adesso con sensori molto attento. Tutto questo può aiutare quella pianificazione per una distribuzione ottimale e concordata tra i portatori di interesse. Quello che Antonio, scusa, ti devo fermare un secondo, tanto continuiamo tra poco. Abbiamo la viabilità e riprendiamo da questo punto. Si può fare. Sono Maria Latella e quest'anno alle 10, ogni domenica, se vorrete, prenderemo insieme un caffè. Con noi ci sarà un ospite o una ospite, parleremo di quel che è successo nella settimana tra politica e attualità, magari faremo qualche previsione su quel che potrebbe succedere nella settimana che comincia. Perciò vi aspetto, tazzina alla mano. Dopo, come sempre, ci sarà Nessuna è perfetta. Con i tanti argomenti che riguardano la vita e il lavoro delle ascoltatrici di Radio 24 e degli ascoltatori, che ci sono e sono tanti, perché mai come quest'anno i problemi vanno affrontati insieme. D'accordo allora? Alle 10 con il caffè della domenica e poi con Nessuna è perfetta. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... Si può fare. I come from down in the valley where Mister, when you're young, they bring you up to do like your daddy done. Me and Mary, we met in high school. She was just 17. We drive out of this valley down to where the fields were green. We go down to the river, and into the river we dive. Antonio Trabucco, siamo sempre in collegamento, ricercatore della Fondazione CMCC, parliamo di analisi del rischio idrogeologico per l'Italia a fronte del cambiamento climatico. Immancabile, Antonio, è arrivato il messaggio che ci ricorda che insomma si può dissalare l'acqua del mare. Va bene, l'abbiamo capito, però la tutela è delle risorse idriche e quello che ci serve forse non è solo dissalare l'acqua da bere. No, beh, le risorse comunque idriche ci sono in Italia, non nascondiamoci, cioè adesso ci sono molte soluzioni in campo che tra le varie cose possono veramente salvaguardare il territorio, per esempio, cioè si può pensare benissimo a stabilire delle nuove centrali sulle coste, e quello già lo si fa per uso industriale, in effetti, dove i circuiti sono chiusi. però per esempio la gestione del territorio è anche altamente importante per regolare e migliorare la qualità delle risorse idriche, e questo ha un'importante ricaduta sul fronte occupazionale, il miglioramento delle la manutenzione delle foreste, esattamente, perché poi io se non ho l'acqua cioè posso risolvere la questione industriale, magari appunto dell'acciaieria, con dell'acqua che vado a recuperare, no, e utilizzarla per usi industriali, ma sulle montagne o comunque nelle nostre pianure abbiamo bisogno dell'acqua per mantenere quella biodiversità, quel territorio che abbiamo, quello che fa poi anche bella e grande l'Italia, tra l'altro, da un punto di vista estetico, paesaggistico, produttivo, l'agricoltura e tutto, non è che si può così semplicemente bypassare. Certo, anche perché ci sono delle azioni che possono anche concordare e minimizzare diversi rischi, cioè qui non è soltanto la scarsità delle risorse idriche, ma anche il fatto che la gestione del territorio può aumentare la sicurezza in casi di forti precipitazioni estreme, che è un altro dei rischi messi in evidenza. Cioè, appunto, regolamentiamo il territorio utilizzando forme più diversificate, appunto queste possono essere anche protezione del territorio, forme di agricoltura di conservazione che miglioriamo la qualità del suolo, o anche l'inclusione di sistemi arborei nel paesaggio agricolo, minimizziamo quelli che sono gli effetti climatici, proteggiamo i corpi idrici pluviali, miglioriamo tutta una serie di caratteristiche sotto molti punti di vista, e tra questi appunto la qualità della vita, la qualità delle acque, e sulla salute, l'uso per anche potabile delle acque. Certo, Antonio, ti vorrei presentare, non so se vi conoscete, ma nel caso fate conoscenza così radiofonica, diciamo così, Francesco Vincenzi, che è il presidente dell'ANBI. Buongiorno, ci ha raggiunto in linea. Buongiorno. Buongiorno, ma molto piacere di risentirla. L'ANBI si occupa di bonifica e di canali irrigui, quindi di acqua ne sa, di agricoltura, di territorio italiano ovviamente ne sa, e recentemente, proprio questa settimana, no, avete presentato un piano che, guardando anche a queste risorse europee che dovrebbero essere in campo, dice: cerchiamo di mettere in sicurezza il nostro territorio, e garantire, no, forniture d'acqua, proprio perché ci sono dei cambiamenti e alcune reti sono colabrodo. Par di capire che ci, certo, sono tutte e due le questioni. Sì, diciamo che i progetti, che sono tutti cantierabili ed esecutivi, prendono forma per tre situazioni in particolare. La prima è la messa in sicurezza del territorio dal punto di vista idraulico e idrogeologico, quindi tutto il rifacimento e l'ammodernamento degli impianti idrovori, il rifacimento della rete dei canali, che ahimè a causa dei cambiamenti climatici, ma soprattutto del consumo di suolo che abbiamo avuto negli ultimi anni, purtroppo non sono più adeguate alle situazioni attuali. La seconda progettazione è quella di adeguamento di tutte le adduzioni irrigue per migliorare sia quelle adduzioni che sono a oggi abbastanza consumate a causa dell'età. Ricordo che molti degli investimenti di cui stiamo parlando sono investimenti fatti al sud con la Cassa del Mezzogiorno, quindi anni 50, 60 fino agli anni 80, e al nord i primi anni nei primi dopoguerra, quindi età che, nonostante la manutenzione che i consorzi di bonifica annualmente, ma non sono più adeguati ai tempi, anche insomma abbiamo visto che ci sono dei cambiamenti, ci sono delle richieste, certo, diverse anche. L'agricoltura che è cambiata, l'agricoltura che ha bisogno di quantità di acqua molto inferiori rispetto al passato, ma in tempi più prolungati, perché se pensiamo all'irrigazione a goccia rispetto all'irrigazione a scorrimento, ha dei volumi di adattamento molto inferiori, ma hanno bisogno di più lunghi. Poi il terzo investimento che secondo noi il Paese deve fare è un investimento per trattenere l'acqua. Gli invasi sono una risorsa per il Paese dal punto di vista agricolo, economico, sociale ed anche ambientale. Occorre ripensare il Paese anche in funzione, ahimè, dei cambiamenti climatici che cambiano le tempistiche della piovosità, per renderle più resilienti non solo per l'agricoltura, ma come ho detto per tutto il territorio, per tutti i cittadini italiani. Antonio Trabucco, fin qui diciamo scienza e no, esperienza si confrontano, ti ritrovi? Sì, assolutamente, cioè la scienza deve seguire appunto gli interessi della società, quindi ormai la progettazione va in questo senso, siamo perfettamente d'accordo, e in questo senso anche Io penso anche che una diversificazione anche delle fonti di approvvigionamento sia abbastanza importante, ma veramente in un certo senso penso che sia importante che ci sia una coerenza anche delle politiche tra i diversi settori. Molto spesso oggigiorno le politiche sono molto settoriali, sviluppate per l'interesse settore, è importante riunire appunto i tavoli con i vari portatori di interesse. Non solo nell'emergenza ma anche nella pianificazione. Certo, Vincenzi, però appunto sono tanti anni che ne parliamo io e lei in particolare, adesso presente vari collegamenti vanno indietro, insomma che al sud ci siano certe infrastrutture realizzate grazie alla Cassa del Mezzogiorno e che al nord sia ora di fare certe infrastrutture, perché prima avevamo una situazione climatica di un certo tipo e adesso ne abbiamo un'altra e sicuramente negli anni a venire non è che torniamo indietro, ma semmai peggioriamo la situazione, certo. È un po' che se ne parla. Recovery Fund e comunque tutta la progettazione europea, no? I soldi che vengono messi in campo in questo periodo, può essere l'occasione? Io credo che sia un'occasione unica per il Paese, un'occasione che però, se utilizzata bene, deve essere utilizzata bene, altrimenti noi andiamo ad ipotecare definitivamente le nuove generazioni e il paese a una situazione veramente di non ritorno. Noi siamo per questo che stiamo proponendo oltre 4 miliardi di progetti dal centro al nord al sud, che garantirebbero anche, che produrrebbero oltre 21.000 posti di lavoro. Questo è un altro tema importante sul tema delle opere pubbliche, che riteniamo che sia un momento strategico quello di aumentare e comunque di diminuire la disoccupazione nel nostro, di aumentare il lavoro e diminuire la disoccupazione nel nostro lavoro, e per questo crediamo che questi progetti vadano incontro proprio a quegli obiettivi che il Recovery Fund ci dà, innanzitutto in termini di tempistica. 2023 affidamento dei lavori oppure impegno di spesa, 2026 termine dei lavori. Questi progetti sono esecutivi, cantierabili, non di grandissime dimensioni, ma di dimensioni che si riescono a fare in quelle tempistiche. Vanno incontro a quella transizione ecologica che l'Europa e che il mondo intero ne sta parlando e che noi andremmo a mettere in campo per primi e ad avere degli effetti quindi positivi sul territorio, andrebbero a diminuire quelle che sono le pressioni dei cambiamenti climatici, sia in termini di piovosità ma anche in termini di approvvigionamento idrico. Credo che con questi tre temi sia sufficiente per dire che il Paese, il Governo e le istituzioni dovrebbero tenerne ampiamente in considerazione. Certo, però c'è un numero, adesso mi spiace, comunque faccio una corretta così evidenza al Sole 24 Ore di oggi, visto che siamo in famiglia, e leggo: piano dissesto fermo, progetti esecutivi al 7%, perché poi c'è anche questo in Italia, che c'era un piano, ci sono dei piani, ma poi i progetti cantierabili, siamo fermi lì, non si va avanti, non basta parlarne, bisogna che poi si dia la spinta, no, alle cose. Guardi, noi abbiamo quel piano che abbiamo presentato, non esiste un progetto all'interno di quel piano che abbia bisogno di ulteriori autorizzazioni, di ulteriori definizioni di progetto. Il piano che noi stiamo proponendo, abbiamo scelto solo ed esclusivamente quei cantieri e quei progetti che sono pronti ed esecutivi, quindi cantierabili. Perché sarebbe il nostro piano, sarebbe di oltre 7.000 opere per oltre 8 miliardi di euro in totale, se pensiamo, se mettessimo dentro anche solo gli studi di fattibilità. Noi abbiamo proprio selezionato solo ed esclusivamente quelli. L'abbiamo dimostrato in passato, vi ricordo che 2 anni fa è partito un primo piano stralcio invasi, dove c'era l'impegno di spesa entro un anno dal decreto dell'affidamento delle risorse. Tutti i progetti affidati ai consorzi di bonifica oggi sono in gara e stanno per iniziare, quindi nelle tempistiche piene che ci eravamo dato. Questo semplicemente perché all'interno dei consorzi di bonifica abbiamo ancora le strutture che progettano, abbiamo le strutture che conoscono il territorio, abbiamo i nostri dipendenti che riescono ancora a supportare e ascoltare il territorio rispetto a quelle esigenze, e quindi noi riusciamo ancora ad avere una progettazione pronta. Diversa è la situazione di altri enti dove purtroppo abbiamo distrutto le strutture anche a nome del costo della politica, dei famosi tagli dei famosi tagli, e oggi purtroppo crediamo questo, non è colpa sicuramente non è colpa solo delle strutture, è colpa purtroppo di una scelta politica fatta nel passato. Allora Vincenzi, la ringraziamo molto e speriamo di sentirci finalmente con qualche cantiere partito. poter festeggiare insieme, aprire uno champagne. Ti inviterò a una prima pietra, l'apposizionamento di una prima pietra. Veniamo volentieri, portiamo anche appunto lo champagne nel caso. Allora, Antonio Trabucco, per salutarci, direi che in questi casi volere è potere, no? Insomma, bisogna, per fare scorrere le cose, bisogna assolutamente darci dentro. Ah beh, non, i cambiamenti, cioè, richiedono degli adattamenti, ma non bisogna prenderle come forzature, bisogna prenderle con un atteggiamento propositivo per migliorare un sistema. È un'occasione, questa è un'occasione, e veramente concordo tutti quanti gli auspici del dottor Vincenzi. A questo punto è importante veramente guardare a sviluppo del lungo termine del paese. E certo, grazie molte Antonio Trabucco, guardiamo tutti a lungo termine, ma lavoriamo nel presente però, perché altrimenti questo lungo termine ce lo troviamo come non vorremmo trovarlo. Abbiamo una piccola pausa e poi dopo andiamo a vedere come scorre l'acqua attorno a qualcuno che è capace di nuotare 45 chilometri. Si può fare. You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing. You see, we never, ever do nothing. Working for the man. Nice. Every night and easy. Day. We always well, do it. I never lost nice. One minute and of rough. Sleep. And but we're gonna take the beginning of this song the thing and do it been. Easy. Big wheel keep but then we're gonna do the finish. Turning. Rough. Proud Mary. It's the way we keep do. On burning. Proud Mary. And we're rolling. Listen to the story. Left a good job down in the city. Working for the man every night and day. And I never lost one minute of sleep. And I was worrying about the way that things might have been. You know that big wheel keep on turning. E stiamo ancora parlando di acque che scorrono, qualche messaggio ci ricorda anche a cosa serve, insomma, avere la tutela dei piccoli corsi d'acqua, ad esempio la vita dei pesci che sono in questi piccoli corsi d'acqua, perché se l'acqua si riscalda, scrive un ascoltatore, non trattiene più l'ossigeno, i pesci muoiono. E via dicendo. Poi ancora qualcuno che parla del lavaggio delle auto, bisogna ritornare alle origini oppure continuare a lavare le auto quando l'ultimo pesce sarà morto, non potremo mangiare il denaro, il succo di questo messaggio che adesso non trovo più per intero, ma questo era quello che ci stava raccontando un ascoltatore, il suo punto di vista. Dicevo, scorrere, l'acqua che scorre attorno a un corpo che nuota per chilometri in acqua. Bene, ci dice un po' che sensazione è quella Sabrina Peron, avvocato, nuotatrice, buongiorno. Buongiorno a voi. Reduce dalla sua ultima impresa, 6 settembre 2020, ha attraversato la Manica, ma attenzione, non è l'unica impresa perché siamo a tre, ormai abbiamo ottenuto questa Triple Crown. Canale di Catalina tra terraferma e di California e Catalina Island e poi Manhattan Island Marathon Swim, 48 chilometri questa e poi Canale della Manica, insomma alle branchie, avvocato, come fa? Sì, sì, credo che mi stiano per crescere, forse sono già cresciute. No, se ci dice come fa a farle crescere, no vabbè, a parte gli scherzi, davvero, com'è che appunto una professionista, lei ha una doppia laurea, filosofia, legge, avvocato, fa mille cose, poi ha anche questa passione, trova anche il tempo per coltivarla. E È un puzzle un po' difficile da mettere insieme, ci vuole sicuramente una grande passione e una grande motivazione per poterlo fare. Diciamo che mi ritaglio sempre orari un po' estremi, o la mattina molto presto o la sera tardi, quindi o la mattina presto prima di andare a lavoro o la sera tardi dopo che sono uscita dal lavoro. Ma lei è a Milano? Siena, sì, Milano. E quindi tutto questo dove lo fa? La piscina dove mi alleno è la piscina Gonzaga. Ah, ok, quindi in piscina, non è il rifiuto della piscina, no? Pensavo cercasse il naviglio, per dire, no? Qualcosa di più simile all'acqua libera. No, gli allenamenti sono allenamenti in piscina, poi magari appena posso o vado al lago. In Lombardia, insomma, ci sono anche dei laghi bellissimi dove si può nuotare bene, tipo il lago di Monate, ad esempio, che non è lontano, oppure magari qualche scappata al mare. No, mi viene in mente, appunto, avevo letto che Federica Pellegrini, che nuota sempre in piscina, poi ha fastidio nel mare. E lei invece in piscina, al contrario, si trova comunque bene, non le manca quella corrente, no, delle sue imprese o... Ma no, perché le avversità. Piace l'acqua in genere, quindi in piscina mi trovo bene. Certo, il mare è una poesia. Il mare è una poesia. È una poesia, però ho letto, insomma, certe imprese, in certi momenti lei si è domandata: ma chi me lo fa fare? Cioè, l'acqua che scorre così impetuosa, no? Come appunto in certi canali, insomma, mette in difficoltà. Sì, mette in difficoltà, però è proprio lì il momento in cui uno appunto si motiva di più, no? Cioè tira fuori, come dire, la vera motivazione e dice: bene, sono qui, sto facendo quello che volevo fare, che è una cosa che mi piace tantissimo, sono arrivata fino a qui con mille sforzi e quindi va bene. È un po' come è una maratona in acqua, però è una maratona, insomma, quindi è proprio quello il gusto, cioè il gusto, la sensazione per chi corre, ecco, immagino prova una cosa simile a quella che prova lei in acqua. Sì, esatto, no? Cioè, in questi sport di endurance c'è sempre un momento di, o forse anche più di uno, di difficoltà. L'importante è capire da dove arriva la difficoltà, quindi identificarla mentalmente, anche un po' velocemente, e poi cercare di superarla. Le serve questa attitudine nel suo lavoro? Ah, sicuro. Sicuro, capire cos'è che non va, identificare il problema e dire: va bene, adesso l'affrontiamo. L'affrontiamo, no? Quindi visualizzarlo e affrontarlo è tutt'uno, insomma. Adesso noi la settimana scorsa abbiamo parlato con una giovane ostacolista, 3000 siepi, quindi cioè lì c'è quell'ostacolo, no, che non lo puoi abbattere. O lo fai, esatto. È la stessa cosa, lo devi prendere di petto e affrontarlo, insomma. Sì. Ma ne approfitto per la sua conoscenza di tanti mari. C'è davvero tanta plastica in giro, la vede anche lei nelle sue... Noi oggi abbiamo parlato di sistemi di raccolta, di pulizia, delle acque, com'è? Più che mentre si nuota in mare, magari la si vede sulla spiaggia, magari, non so, buttata sulla spiaggia, si vedono tanta plastica, bottiglie, rifiuti, soprattutto magari dopo che c'è stata una qualche mareggiata, cose così. E devo dire che è triste. È triste, beh, certo. Un posto bellissimo, meraviglioso, diventa subito posto brutto. Ha in mente un posto particolare mentre mi dice questo? Cioè c'è qualche luogo che ha visto particolarmente malmesso? Sì, che io ho nell'anima perché ci sono cresciuta, che è il mare dove vado, che è la casa, il mare dove c'era la casa dei miei nonni in Sicilia, che secondo me è uno dei posti più belli del mondo, perché è la spiaggia di Fondachello di Mascali, che hai di fronte l'Etna. Dici: dov'è che posso nuotare guardando l'Etna? A destra vedi Taormina, alle spalle vedi la Calabria, e dici: è un posto unico al mondo e purtroppo tenuto male. Tenuto male perché ogni volta che vado lì è sempre pieno di plastica, io credo di essere una delle poche che ogni tanto si mette, la raccoglie, si arrabbia se vede che gli altri buttano la plastica. Ma lei è un po' così, perché vedo che si butta in tante attività adesso, a parte quelle appunto sportive, di endurance, come diceva poco fa, come dicevamo poco fa, poi adesso mi dice questa battaglia per la pulizia della spiaggia, anche per l'inclusione dei ragazzi nelle piscine. Prende un po' tutto di petto, mi pare. Sì, abbastanza. Sì, ha inquadrato il mio carattere, complimenti. Ma non lo so, mi sono bastate poche righe di biografia per capire che con lei non ci voglio litigare, non so com'è. Diciamo che, come sono testarda quando sono in acqua a nuotare, sono testarda anche quando mi punto su una cosa che ritengo importante o che comunque che vivo come un'ingiustizia. Come qualcosa che non deve succedere, no? Perché non è giusto che succeda. Cosa fa con i ragazzi in piscina? Ma in realtà io a volte quando insomma vengono organizzate partecipo a delle, come dire, spesso in piscina, soprattutto qui in Lombardia, vengono organizzati magari degli eventi per raccolta di fondi che vanno a varie associazioni che si occupano di ragazzi disabili e cose così, per cui si fanno queste lunghe nuotate in vasca per raccogliere questi fondi. E un'altra volta, un paio di volte, ho accompagnato dei ragazzi disabili a nuotare in mare, per cui io nuotavo a fianco a un ragazzo, in questo caso era una ragazzina bravissima, molto coraggiosa, perché il mare era davvero impegnativo, forte, cioè mosto, difficile, freddo, e quindi io l'ho accompagnata, ho nuotato a fianco a lei, l'ho incoraggiata, abbiamo fatto questo percorso di un paio di chilometri, quindi è stata proprio brava. Infatti ci ho complimentata con lei e i suoi genitori. Certo, senta, le voglio chiedere un'ultima cosa, ho visto tra le tre grandi competizioni che ha fatto, insomma tre grandi, come si chiamano? Traversate. Ce ne sono di più lunghe e di più corte, però forse non è la lunghezza in questi casi che rende una traversata più difficile di un'altra, qual è stata la più impegnativa? Sì, non è la lunghezza, perché a volte dipenderà dalle correnti. Dalle correnti, esatto. Per cui, per esempio, Manhattan, che era molto lunga, però nuotata, era sicuramente difficile, ma nuotata sempre con l'assistenza della corrente a favore, non è stata tra le più difficili, pur essendo tra le più lunghe. Per me, tra le più difficili, sicuramente è la Manica. Non a caso viene paragonata, per chi nuota in mare, all'Everest, per chi va in montagna. Ok, quindi teniamoci noi che non siamo bravi alla larga dalla Manica, sì, lasciamola agli esperti. Io l'ho preparata in 2 anni, ci ho messo 2 anni di preparazione per poterla affrontare. E tutta l'esperienza precedente, ovviamente. E tutta l'esperienza precedente, certo, quindi non è una cosa che si improvvisa. Si dice, ah sì, adesso sai cosa c'è di nuovo, vado a fare questa avventura. Ma no, cosa fanno? Fermano il traffico delle navi in quel momento o fermano il nuotatore nel caso? No, le navi comunque erano molto, molto lontane. Ovviamente vengono avvisate le autorità che c'è un uomo in mare, e poi il pilota, sono sempre pilota molto bravi, molto esperti, e ti portano sempre lontano dalle rotte. Sì. Grazie Sabrina Perone, complimenti ancora. Grazie mille a voi per alla l'invito. Prossima occasione, avvocato, nuotatrice, l'abbiamo sentita. 824 0024 per vostre eventuali esperienze di traversate, così a nuoto. Ci sentiamo tra pochissimo dopo la viabilità. Si può fare. E vedrete che Schillacci in qualche maniera riesce a sgusciare via. Calibra poi bene su De Napoli, da questi a Vialli verso Giannini. Inserimento di Giannini, colpo di testa, Vialli, tiro! E gol di Schillacci ancora! Tanti le chiamano storie di sport. Per me sono storie della nostra storia. Sono Dario Ricci e vi aspetto ogni sabato alle 22.30 e ogni domenica alle 16.30 a Olimpia per raccontarvi tutte le sfide tra gli dei dello sport naturalmente qui su Radio 24, e su radio24.it il podcast e i contenuti extra di ogni puntata. Può fare. Il mare d'inverno è solo un film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via. Punti invisibili rincorsi dai cani, stanche parabole di vecchi gabbiani. E io che rimango qui solo a cercare un caffè. Acqua che scorre, 824 0024 se volete intervenire, 349 238 6666 per messaggi, WhatsApp o SMS. Via SMS ci ha scritto tra l'altro un ascoltatore che si chiama Marco Bezzi e ci presenta la sua startup sostanzialmente, credo, adesso poi magari lo contattiamo, la sua startup per il risparmio idrico in agricoltura. Insomma, uno strumento particolare l'SMS per segnalare una startup, ma faremo un'eccezione magari per Marco in questa occasione, lo mettiamo in contatto con Ambi. Dicevamo acqua, mare, mare e acqua. Noi abbiamo in Italia tantissime terme. Ho scoperto, grazie all'intervista che faremo tra pochissimo, che siamo ricchissimi di terme proprio perché abbiamo tanto mare, o abbiamo avuto tanto mare, anche laddove mare non c'è più, come ad esempio a Salso Maggiore. A Salso Maggiore Terme ha aperto recentemente il MUMAB, Museo Mare Antico e Biodiversità. Franca Zanichelli ne è la direttrice, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, a lei. Salso Maggiore, l'acqua che scorre è quella delle terme per tutti noi, ma ho scoperto, certo, nella vostra presentazione del museo che scorre proprio perché lì un tempo c'era un mare. Sì, c'era un mare perché il Golfo Padano, la pianura padana, si è formata soltanto negli ultimi milioni di anni e grazie alle alluvioni del Po e dei suoi affluenti, ma sotto c'era un grande golfo dove nuotavano balene e tanti altri animali. E questi animali facevano parte appunto di ambienti che si erano formati nel passato perché, anche se non sembra possibile a molti, ma la vita si evolve come si evolvono le montagne, come tutto cambia. E quindi ci sono stati addirittura due vecchi mari, uno più antico, da cui proprio ha origine questa situazione di acque salse, Salso Maggiore, queste acque salate, queste acque che si formano in profondità e per le quali praticamente diciamo sono una sorta di testimonianza di questa situazione. E quindi un primo mare più antico, un secondo mare un po' più recente, e da questi sedimenti profondi sono stati rinvenuti da un cultore della paleontologia fossili molto importanti di baleni, cetacei, di delfini, che hanno contribuito a realizzare una raccolta molto bella. E una che adesso è visitabile, no? Che adesso è visitabile in questo museo aperto al pubblico dal 5 di settembre. E c'è questa bella balena nel giardino. La balena l'abbiamo messa proprio, come dire, si chiama Giorgia tra l'altro, questa balena, perché questo paleontofilo che si chiamava Quarantelli aveva dato il nome dei fossili più importanti che trovava con i nomi delle sue nipotine. Una si chiama quindi Giorgio, una Beatrice e una Matilde. Allora abbiamo preso Giorgia, che è la più antica e che è quella che porta anche il suo nome scientifico, perché è un fatto abbastanza importante, molto raro, una balena poco, insomma, diciamo che ha delle caratteristiche. La balena di Salso Maggiore, diciamo, la balena precisa. Allora lei esce dal cemento e dice: signori, volete sapere cosa succede? Succede che qua sotto, se scorticate questa pellicola di suolo e tutto quanto, ci trovate dei sedimenti che testimoniano che c'era praticamente un mare antico. È molto bella questa cosa, perché molti non riescono a immaginarci, no? Immaginare come funziona questa cosa per cui si impilano i sedimenti e alla fine, insomma, tutto cambia. E questo museo abbiamo proprio chiamato del mare antico e della biodiversità, perché c'è una connessione molto forte tra ciò che è stato e ciò che è. Quindi quest'acqua... Cioè, da cosa dipende? Quest'acqua cosa vi ha portato negli anni? Nei secoli, perché qui parliamo di cose... Esatto. Antiche, scorrere del tempo, per l'appunto. Sì, esatto. C'è tutta una parte, chiamiamola, in cui la presenza dell'uomo non c'era, e quindi c'era tutta questa evoluzione prettamente naturale, di storia naturale. Poi che cosa succede? Quando comincia a riempirsi la pianura, grazie appunto a queste alluvioni, si ha che comincia una vita terrestre, e nella vita terrestre le migrazioni dei popoli, perché parliamo un po' degli ultimi anni dopo l'ultima glaciazione, arriva anche l'uomo in queste, e capisce sin da subito che si può estrarre da sottoterra quest'acqua. Quindi è conosciuta sin nel Neolitico dai romani, che la utilizzano e cominciano a utilizzarla facendola bollire, e ne ricavano il sale. Noi sappiamo che il sale è il petrolio luce del passato. Come no? Essendoci i frigoriferi, che cosa potevano fare? Mettere salare, sotto sale, certo. Conservare. E quindi Terra dei Salsi, Salso Maggiore, Salso Minore e tutti i percorsi collegano questa storia molto bella del passato e del territorio col territorio attuale, che utilizza queste risorse in vario modo. Infatti quello che voglio dire è che oggi ci si propone, tra l'altro lei sa che Parma è stata capitale della cultura nel 2020 e purtroppo è andata come è andata, il problema certo. Quindi c'è questo prolungamento nel 2021 e il comune di Salso Maggiore sta lanciando questa cosa straordinaria, Acqua che passione, mettendo insieme proprio il Museo del Mare Antico con tutto quello che può essere questa chiave di lettura molto bella e anche molto intrigante del territorio, con un museo molto dedicato ai bambini, anche per ricordare con questa balena Giorgia come sia importante comunicare correttamente proprio il significato dell'acqua, il valore dell'acqua dei fiumi, perché abbiamo questo torrente Stirone e quindi le falde acquifere che non devono essere inquinate, che devono essere mantenute, perché sono la nostra, il nostro modo oggi per procurarci acqua importante, ecco, certo. Soprattutto in questi territori interni. Sicuramente, io la ringrazio davvero per questo collegamento, per tutte le informazioni che ci ha dato e ci ha svelato molto anche della vostra zona. Franca Zanichelli, la direttrice del MUMAB, abbiamo sentito a Salso Maggiore, e se volete visitarlo ovviamente ha aperto i battenti al pubblico. Che cosa abbiamo scoperto in questa puntata? Che si può far scorrere l'acqua bene, abbiamo scoperto che si può far passare il tempo bene, sicuramente per costruire un buon futuro. Ringrazio anche tutti coloro che hanno telefonato, in particolare ho visto la signora Maria Grazia, non riesco a farla parlare, ma sì, nuotare fa bene, il contatto con l'acqua le dà gioia, le dà soddisfazione, nuota il più possibile, sicuramente la mantiene anche in salute. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno realizzato con me questa puntata, Edoardo Lavezzari, Michele Michelazzo, oggi in regia c'è Paolo Corleoni, ci ritroviamo domani mattina, una nuova puntata di si può fare con le mani, ci domandiamo. A domani. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.